Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Puntata numero 434, nella quale parleremo di cani da laboratorio, libri liberatori, migranti calanti. Speriamo di avervi incuriosito. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. In ambito animalista si parla molto degli animali sfruttati a scopo alimentare, probabilmente perché i numeri sono giganteschi e quindi è quella la prima emergenza da affrontare, ma anche la sperimentazione animale, in quanto a numeri, vanta un triste consistente primato. Recentemente è uscita una investigazione su The Intercept, un portale di informazione libera con ottime inchieste realizzate da giornalisti indipendenti statunitensi, che ha gettato un altro fascio di luce sui cani, principalmente i beagle, allevati per la sperimentazione scientifica, una pratica tanto angosciante quanto perfettamente legale. Come d'altra parte è legale lo sterminio di animali a scopo alimentare. Ve ne proponiamo uno stralcio. C'è negli Stati Uniti un'industria in gran parte nascosta, mal regolata e altamente redditizia che ha una macabra funzione. I cani da riproduzione al solo scopo di sperimentazioni, spesso lunghe, ripetute e dolorose. Dopodiché i cani vengono uccisi perché diventano inservibili. Gli statunitensi spesso esprimono orrore verso i crudeli festival di paesi come la Cina, la Corea del Sud, dove i cani vengono uccisi, cucinati e mangiati. I media mainstream negli Stati Uniti riportano regolarmente con un tono di disgusto l'uso dei cani in quei paesi per il consumo di cibo. Ma negli stessi Stati Uniti le multinazionali e le istituzioni accademiche sfruttano i cani, così come i gatti, i topi e i conigli, per esperimenti strazianti, che sono completamente banali, persino inutili e altrettanto terrificanti. Questi cani vengono fatti nascere e allevati al solo scopo di essere oggetti di laboratorio e trascorrono la loro intera esistenza, spesso breve, rinchiusi in piccole gabbie, sottoposti a procedure che impongono dolore e sofferenza estremi. La Ridgeland Farms è una delle tre maggiori aziende degli Stati Uniti che fornisce beagle alle strutture di ricerca. Situata nella contea di Dane, nel Wisconsin, su una collina ad ovest di Madison. La scorsa primavera attivisti di DXE, cioè Direct Action Everywhere, hanno aperto una porta socchiusa presso la struttura di Ridgeland per indagare sulle condizioni interne, documentare ciò che avrebbero visto e salvare un campione di cani in particolare difficoltà. Ciò che hanno trovato ha inorridito anche questi attivisti ormai induriti che da anni assistono ai più orrendi abusi sugli animali. Gli attivisti di DXE hanno trascorso un anno a studiare la struttura e il settore a cui questa struttura fornisce animali e adesso stanno rendendo pubbliche le riprese che hanno fatto all'interno e il rapporto che le accompagna. Questo è il testo della testimonianza. Quando ti avvicini alla struttura, l'odore è esattamente lo stesso di quello sentito in macelli di carne di cane in Cina. La prima cosa che gli investigatori hanno visto entrando era che i cani sono alloggiati in enormi capannoni industriali con enormi ventilatori molto simili ai capannoni utilizzati negli allevamenti. Migliaia di cani sono tenuti in gabbie grandi circa il doppio del corpo del cane e le gabbie sono impilate l'una sopra l'altra. Non abbiamo trovato strutture esterne dove i cani possono uscire o sgambare. I cani siedono sulle loro stesse feci e urine, incapaci di scappare dai loro stessi rifiuti. E sono così disperati e senza speranza che sbattono contro le sbarre della gabbia, allungano disperatamente le zampe attraverso queste sbarre e talvolta le masticano. Le loro urla sono così forti e rimbombanti che siamo stati costretti a gridare per comunicare tra noi anche quando eravamo a pochi passi di distanza. I go to sleep before the devil wakes, and I wake up before the angels take all my worldly desires, all my yardsticks of fear hang down, hang down. Secrets untold, all my motives unclear. Hanging down in the fire, burning them higher, won't take them away from here. And long after we're gone, the lights will stay. Martedì prossimo sarà il sesto anniversario dell'azione di disobbedienza civile spontanea di Green Hill. 6 anni fa, il 29 aprile del 2012, durante una manifestazione contro l'allevamento di beagle di Montechiari in provincia di Brescia, i manifestanti irruppero dentro lo stabilimento e portarono in salvo alcuni cani. Questa azione, nonostante la palese illegalità, fu molto mediatica e ottenne un generale consenso pubblico, anche perché, possiamo dirlo, i cani sono animali domestici, molto protetti e amati e abitano nelle nostre case. La stessa cosa, purtroppo, non si può dire per i topi e i conigli, che sono invece la base numerica più consistente della ricerca scientifica sul modello animale. Si concentra sulla questione di Green Hill il libro che Agata e Roberta ci propongono questa settimana e soprattutto che propongono a tutti i bambini lettori che amano gli animali. speriamo che sia vegan. Letture per bambini che amano gli animali. Come spiegare ai bambini che esiste la vivisezione e che gli animali vengono torturati per gli esperimenti? Come spiegare che una strada per salvarli è quella della liberazione? C'è un libro che ha cercato di rispondere a queste due domande in modo semplice, con una storia, quella di Valentina libera tutti. Anzi, sarebbe più corretto dire di Valentina e del cane Arturo, che insieme liberano tutti. Un racconto da tempo annunciato, ma che solo di recente ha fatto capolino sugli scaffali delle librerie, con la firma di Mimmo Tringale, direttore di Terra Nuova, e con le illustrazioni di Chiara Pasqualotto. Non solo, anche con il sostegno di associazioni quali la LAVE e il coordinamento Fermare Green Hill, perché il racconto si ispira a una storia vera, quella avvenuta a Montichiari, in provincia di Brescia, dove grazie a una vasta mobilitazione nel 2012 vennero liberati tutti i 2.639 beagle destinati alla vivisezione e detenuti nell'allevamento. È proprio uno di loro, infatti, affamato e impaurito, che incontra un giorno Valentina nel giardino, avvertita dal suo amico Merlo. Un beagle? Ma è il mio cane preferito! Voglio andare subito a vedere! Il cucciolo era rannicchiato sotto un grande cespuglio e appena vide arrivare la bambina cercò di nascondersi tra i rami più bassi. Con grande cautela si avvicinò al cucciolo e cominciò ad accarezzarlo. Come ti chiami? E come mai sei qui tutto solo? Non ho un nome e non ho mai avuto un vero padrone. Sono nato in una specie di grande ospedale frequentato solo da uomini in camice bianco. E i tuoi genitori? Sono rimasti lì. Io sono scappato per chiedere aiuto. Ho scoperto che non si tratta di un vero ospedale, ma di un laboratorio dove ci usano come cavie. Cavie? Che cosa sono le cavie? Le cavie sono animali utilizzati per fare esperimenti, delle prove. Che tipo di prove? Prove terribili. Ogni volta che viene prodotto un nuovo medicinale, uno shampoo o anche un collirio, gli uomini vestiti di bianco li provano su di noi, ci costringono con la forza ad assumere i peggiori intrugli. Ma perché si comportano così? Sono proprio cattivi! Ma non c'è un altro modo? Sì, certo che c'è, ma per risparmiare preferiscono fare gli esperimenti sulle scimmiette, sui topolini o sui cani. Ma è terribile! Sì, per questo voglio liberare i miei genitori e tutti i miei amici imprigionati lì dentro. Ma da solo, piccino come sono, tutto è più difficile. Ti va di aiutarmi? Ma certo, sei il mio cane preferito. Per te farei qualsiasi cosa. Anzi, ora che ci penso, ho già in mente chi ci può dare una mano. Andiamo subito da mio nonno. Lui ha sempre delle buone idee. Ma prima devo darti un nome. Va bene se ti chiamo Arturo? Arturo conosceva bene la strada e condusse velocemente Valentina nella zona delle grandi gabbie, dove erano rinchiusi i cani. Avevano tutti una grande voglia di abbaiare di felicità, ma sgattaiolarono in silenzio fino alla recinzione. Con il cuore in gola e il timore di essere scoperti, varcarono il recinto della loro prigione. Erano tantissimi! Valentina non credeva ai suoi occhi. Mentre correva con loro verso l'uscita provò a contarli, ma dopo un po' si dovette fermare. Erano davvero tanti. Più di 100, più di 200, più di 1000. Migliaia di cuccioli che correvano felici con alla testa il piccolo Arturo. Erano finalmente liberi. Valentina libera tutti, di Mimmo Tringale. Illustrazioni di Chiara Pasqualotto. a partire dai 4 anni, Terra Nuova Edizioni, €13,50. Liberi, liberi, liberi, liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti. When are you coming home? Get away now and go back. I'm gonna pick you up. Hear what you say. Primavera, stiamo rischiando che la primavera non faccia più rondini. Su Repubblica.it del 18 maggio un titolo ha attirato la nostra attenzione. Rischiamo di vedere sempre meno rondini, uccelli migratori minacciati dal riscaldamento globale. Nell'articolo apprendiamo che le nostre rondini, così come anche i balestrucci, stanno diminuendo a ritmo costante. Questi animali vivono in Africa dalla metà di ottobre alla metà di marzo, mentre nei restanti 6 mesi migrano verso l'Europa. Il deserto transariano, però, per il riscaldamento globale, si sta allargando verso sud, quindi per questi animali raggiungere i luoghi dove svernare è sempre più faticoso. Le distanze tra Sahara ed Europa aumentano e gli uccelli nel percorso consumano preziose energie, tanto che molti non sopravvivono, soprattutto i giovani, le nuove generazioni. Gli uccelli sono probabilmente le creature più mobili della Terra. Per affrontare le loro lunghe migrazioni, i loro corpi subiscono adattamenti morfologici, fisiologici e comportamentali prodigiosi che permettono loro di volare in alto velocemente per lunghi periodi durante i loro epici viaggi. Qualche esempio: la sterna nordica paradisiaca non ha rivali in quanto a capacità migratoria, è l'unico uccello a migrare tra l'Artico e l'Antartico, un incredibile viaggio di andata e ritorno. La berta grigia, nella sua migrazione annuale intorno all'Oceano Pacifico, può arrivare a percorrere 64.000 km. Il chiurlo dell'estremo oriente si sposta dalla Siberia fino alle coste dell'Australia e gli individui di sesso femminile proseguono ancora più a sud verso le zone umide dell'Australia meridionale. I Merop si spostano dall'Europa orientale fino all'Africa meridionale. Un individuo inanellato vicino a Mosca è stato registrato nello Zimbabwe a circa 8.000 km di distanza. In 2 seconds flat, I move on to the next one, fortunate child. Sostenere il volo per così tanto tempo senza nutrirsi richiede notevoli adattamenti fisiologici. Gli studi hanno messo a fuoco che le pittime a coda di ruta partono con più della metà del loro peso corporeo fatto di grasso, mentre il loro intestino si restringe per far posto al grasso in più e ai muscoli. Oltre al loro valore estetico, gli uccelli migratori sono importanti in numerose culture, per esempio sono messaggeri del cambio di stagione, sono indicatori ambientali, collegano paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo senza conoscere alcuna idea di frontiera o di confine. Promuovono quindi legami tra le nazioni e agiscono come preziosi ambasciatori per il nostro patrimonio naturale condiviso. Sono simboli, insomma, di pace e di un pianeta unito. I loro viaggi ispirano persone di tutte le età in tutto il mondo. Le preoccupazioni, però, per le minacce affrontate dagli uccelli migratori, oltre al riconoscimento che la loro conservazione è un dovere internazionale, sono alla base della legislazione e di convenzioni internazionali. Va in questa direzione la Giornata Mondiale degli Uccelli Migratori, che si celebra il 12 maggio e il 13 ottobre, quindi due volte l'anno, con l'obiettivo di rafforzare il riconoscimento e l'apprezzamento degli uccelli migratori e di evidenziare la necessità di conservarli prima che sia troppo tardi. Suggeriamo a tutti di visitare, di linkare, di diffondere la pagina www.worldmigratorybirthday.org, cioè Giornata Mondiale degli Uccelli Migratori. Gli sforzi sono rivolti alla necessità di proteggere gli uccelli migratori e il loro habitat a tutti i livelli in tutte le parti del mondo, concentrandosi in particolare sul progetto di unificazione delle rotte migratorie. I lost the will to, I lost my way, I lost this ocean, it poisoned me. People collect ya, people collect ya. Nessun animale è stato maltrattato durante la produzione di questo film. È questa la formula hollywoodiana standard garantita dalla American Human Association, associazione che si occupa di monitorare il modo in cui gli animali vengono trattati sul set. Per la nostra rubrica di cucina Il Pasto Gentile potremmo parafrasare dicendo che nessun animale è stato maltrattato, sfruttato, ucciso o recluso prima, durante e dopo questa ricetta. Sentiamo la proposta della settimana del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Una rondine non fa primavera? Beh, è dire che ce ne sarebbe proprio bisogno. E allora, per rimanere in tema, ecco la ricetta per i nidi di rondine primavera. Gli ingredienti per 4 persone sono 200 g di spaghettini, 100 g di piselli freschi, uno spicchio di aglio, un mazzetto di prezzemolo, olio extravergine di oliva, 100 ml di latte di soia non dolcificato, 10 g di amido di tapioca, un cucchiaio di lievito alimentare a scaglie, 50 g di farina di ceci, 100 g di salsa di pomodoro, sale e pepe. Temperate la farina di ceci con poca acqua o latte vegetale e un cucchiaio di olio extravergine. Condite con sale e pepe nero e lasciate riposare. Dovrete ottenere una crema abbastanza liquida. Lessate gli spaghettini per 3 minuti in abbondante acqua salata. Scolate, conservando un po' di acqua di cottura, e condite con la crema di ceci. Se risultassero troppo asciutti, aggiungete un pochino di acqua di cottura. Quindi, con l'aiuto di una pinza da cucina o di una forchetta, realizzate dei nidi arrotolando gli spaghetti. Disponete i nidi su una placca con della carta forno spennellata di olio e passate un filo di olio sopra ogni nido. Quindi infornate per 15 minuti a 180 gradi. Nel frattempo fate cuocere i piselli coprendoli con acqua, un cucchiaio di olio, uno spicchio di aglio in camicia e schiacciato e del prezzemolo tritato, sale e pepe. A parte stemperate l'amido di tapioca con il latte di soia e il lievito alimentare. Aggiustate di sale e mescolando con una frusta portate ad ebollizione. Farcite ogni nido con questa crema filante e un cucchiaio di piselli. Mettete in forno ben caldo per altri 5 minuti prima di servire, adagiando ogni nido sopra uno specchio di salsa di pomodoro. On my way up north, up on the venture I pulled back the hood, and I was talking to you, and I knew then it would be a lifelong thing, but I didn't know that we could break a silver lining. And I'm too sick, like a good book, I can't put this deep sort of fairy tale with you. A sort of fairy tale with you. A sort of fairy tale with you. Things you said that day upon the 101, the girl had come undone. I tried to downplay it with a bit about us. He said you'd take it as long as I could. I could not erase it. And I'm too sick, like a good book, I can't put this deep in a sort of fairy tale with you. Vi saluta la nostra redazione al completo, che è composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 435 della nostra trasmissione è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.